L'avevo desiderato tanto, perché era una questione di prestigio, perché tutti i miei colleghi ce l'avevano, perché speravo che avrebbe dato uno slancio al mio lavoro, ricercatore senza fondi presso un ente di ricerca, perché avrebbe accresciuto la mia autostima e mi avrebbe aiutato a dimagrire. E alla fine, l'anno scorso, l'ho ottenuta, la mia prima docenza a contratto presso un'università. Mi sono organizzata con le ore di lavoro e con i giorni di recupero, con gli orari dei treni, con la foresteria per il pernottamento, con la segreteria didattica che mi ha fornito i nomi degli studenti. Organizzazione perfetta e non più di un'ora e mezza di lezione. Era la prima volta che organizzavo le mie lezioni e mi sono resa conto che non era per niente facile riuscire a coprire tutto il programma del mio insegnamento in 25 ore. Ma la cosa che mi ha fatto sudare freddo è che non ricordavo tutto. Ho dovuto ristudiare da capo alcune cose. Comunque è andata bene, gli studenti erano tranquilli e interessati, e a parte qualche momento in cui mi sono mostrata un po' incerta, la cosa è filata liscia. Quest'anno ho ottenuto di nuovo l'incarico, e così sto rimettendo in moto il meccanismo organizzativo. Sono sempre un ricercatore frustrato, senza fondi, il mio prestigio e la mia autostima sono cresciuto un pochino, ricordo un po' di più degli argomenti delle mie lezioni, e sono sempre grassa. Insomma, nessun cambiamento nella mia vita, solo una cosa. Ho cambiato il libro di testo.